Va ora in onda Rock Revolution. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright, alright. You say you got a real solution. Plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be? In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, buonasera, bentrovati su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. Anche questa sera siamo pronti a trascorrere con voi tre ore di rock and roll, di musica emergente e insomma tanti ospiti. Chiaramente ci sarà anche l'informazione con Francesco Quartararo, quindi in collegamento da Palermo con palermonotizie.it. Poi avremo ancora un'intervista molto interessante con i Verbal, una band che abbiamo conosciuto e che abbiamo il piacere questa sera di farvi conoscere. Ancora in studio intorno alle 22 qualcosa, i Deep Black Seas, questa band di Castelbuono molto molto forte, che avremo il piacere di ospitare nuovamente a Rock Revolution per conoscere un loro nuovo lavoro che abbiamo trovato veramente estremamente interessante. Vi diamo subito le coordinate per mettervi in collegamento con noi, ovvero gli sms al 335 56 37 251. Sapete benissimo che siamo anche su Facebook, quindi se avete voglia potete comunicare con loro, insomma fare qualche post sul nostro profilo Facebook, ovvero CR MP Radio per quanto riguarda la nostra emittente, mentre il profilo Rock Revolution Redazione per commentare insomma tutto ciò che accade durante questa puntata, perché ormai sapete anche voi fate parte di Rock Revolution, quindi ci teniamo alle vostre interazioni roccheggianti, così. Volevo ringraziare Ida Barlavecchio, la nostra redazione, anche lei pronta, quest'oggi sarà una dura battaglia, cara Ida, mi sa perché purtroppo Simone non è dei nostri, anzi lo salutiamo, è a casa, poveraccio, con l'influenza, dicono sia l'asiatica, non so se è con un'asiatica o con l'influenza, però fatto sta che stasera non ci sarà, quindi lo salutiamo, un abbraccio e un bacio. Ida mi ha fatto una faccia strana quando ho detto sta cosa, che sapete. Vabbè, iniziamo subito con la prima canzone di questa sera, inizia quindi ufficialmente Rock Revolution. Abbiamo pensato di iniziare con una canzone insomma abbastanza recente, ma poi lo sapete, affronteremo anche la musica degli anni passati, quelli che sono i brani, gli evergreen cosiddetti, grandi successi della storia della musica internazionale rock and roll. Ah, c'è anche il Rock for You, stavo dimenticando, e Rock Revolution Live, insomma tantissimo materiale a disposizione vostra questa sera, fatene buon uso, alzate il volume e rilassatevi con un po' di rock and roll. Inizia Rock Revolution su CRMP Radio. Poi dobbiamo parlare anche di una cosa molto importante, però non vi voglio anticipare niente. Ascoltiamo subito i The Black Keys e questa si intitola Lonely Boy. Keep me. La musica nuova su CRM Radio all'interno di Rock Revolution. Ricordo poi ci potrete seguire anche in replica domenica pomeriggio dalle 19 sempre su CRM Radio, oltre chiaramente la possibilità di ascoltarci comodamente quando ve pare, detto alla romana, tramite il nostro podcast sempre su crmpradio.it o su rockrevolution.it, quindi così potete scaricare tranquillamente la puntata, riascoltarla comodamente insomma a casa. La musica continua, adesso un altro disco abbastanza recente, parliamo dei Jet con Break It On Back. Is it okay if I don't make it? Is it okay if I don't come around? Light is fading and the sun has gone down. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Where's the day that never ended? Tell me when it's time to open up my eyes. Light the morning with the sun on the rise. Bring it all. Singolo, secondo estratto dell'album Shine On solo per il Regno Unito, per quanto riguarda la musica del Jet, che sono tornati insomma con questa canzone molto particolare Bring It Back, mentre ci accingiamo insomma a trasferirci più o meno nello stesso anno assieme a Kasabian con Lost Soul Forever, che invece è il secondo singolo pubblicato dalla rock band inglese, estratto dal loro album di debutto Kasabian per l'appunto. La canzone tra l'altro fu il primo pezzo che dei Kasabian ad entrare nella top 10 inglese, arrivando al 10° posto, poi fu scelto anche come colonna sonora del videogioco FIFA Football 2004. Lo so che siete tutti un po' maniaci di sto gioco, anche io ci fu un periodo. è bello, divertente, insomma, passarsi una serata con gli amici a giocare a calcio magari d'inverno, niente male. Vabbè, adesso però dovete ascoltare la radio perché ci sono i Kasabian, questo è Lost Soul Forever. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little. My step on it, electronic. The chips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on in, get on it. I'm carving through a letter bomb, I need it. Life potions, these drugs are just an hour away. electronic, a polyphonic, rusted to the mortars, on fire, messiah by the animals. I'm treading just a little more. Step on it, electronic. The troops are on fire. I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals. Mancare l'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. I don't wanna see you go down. Sergei Tankian, Sky's Over. Bella sta canzone, molto d'ambiente direi, no? Proprio dal senso di apertura. Complimentoni a loro. Adesso da Sergei Tankian a Francesco Quartararo. Pronto Francesco, buonasera, ben trovato su Rock Revolution nuovamente. Oh. Buonasera, che differenza. Ma dimmi una cosa, perché c'è una leggenda che gira su Sergei Tankian che abbia vinto un premio come miglior voce tenore un anno. Guarda, non sono informato a riguardo, ma non mi stupirei, perché comunque è un'estensione vocale molto ampia. Sì, cioè, non so se è una leggenda confermabile o da confermare, però ne avevo sentito parlare già ai tempi dei System of a Down. Guarda, ci informeremo, anzi colgo l'occasione per invitare il pubblico di Rock Revolution a farci sapere questa cosa, se la sanno. Dal nostro sito crmpradio.it c'è un modulo da compilare online, lasciare il vostro messaggio, oppure insomma su Facebook o ancora su Twitter, insomma sono infiniti modi per comunicare con noi, ci fate una cortesia, così anche Francesco stanotte dorme, perché... Caro Francesco, senti, intanto com'è andata la settimana? Settimana bella piena, ci sono le selezioni dell'Italia Wave per la Sicilia, ci sono anche due appuntamenti che mi ero segnato per stasera e per domani. Musicalmente, insomma, siamo lì ormai, ci sono una serie di contest, sono iniziate una serie di selezioni per contest a livello locale, quindi siciliano ma anche italiano, insomma, la primavera porta musica. Assolutamente. Senti, invece il Rizla Contest com'è andata? Rizla Contest, allora, si sono qualificate 15 band, c'è stata un po' di lotta e niente, comunque si passa alla fase 2 con le tre serate che verranno a seguire. Domani invece sono di finale, finalissima al Garage Clash Contest dell'Arcibarcollo, si esibiranno tre band di tre generi totalmente diversi, ovvero Zyron, Black Season e Optimal Junks. E vedremo, ballano 700 euro di premio finale. Hai capito? Le band sono abbastanza agguerrite, insomma, la competizione la sentono, dai, mettiamola così. Bene, è giusto che ci sia poi, penso, no? Sì, un po' di competizione. Giusto. È giusto che ci sia. Tu invece cosa farai questa sera? Questa sera non so, perché c'è tanta roba in giro. Ti dicevo, le selezioni Italia Web stasera portano all'Atelier Montevergini Cinema Noir, che sono anche qualificati a Rizla. Poi Roberta Gulisano da Enne, Narian da Catania, Good Morning Finch da Agrigento e la Mugalena da Messina. Hai capito, insomma, un bel putpourri. Senti, sempre stasera ci sono i Diaframme in concerto e Canderai. Una band storica, tra l'altro, palermitana. Esatto. E poi abbiamo Rock d'autore al Rock Sound City Retro con Vuoto Apparente, Rocky Band, che è una band molto simpatica che purtroppo conosciamo. È stata eliminata da Rizla perché hanno proposto una cover mentre stavano eseguendo un brano originale, insomma, gli è partita la scintilla, ma ci può stare. È sintetico e propone un elettropop particolare. Domani poi abbiamo... volevo aprire una parentesi, tra l'altro a breve avremo ospiti anche i Sintetico per presentare il loro nuovo lavoro, quindi hai visto, ci aggiorneremo. Siamo lì. Allora, ti dicevo, poi vabbè, domani oltre alla finalista del Garage Clash Contest abbiamo anche la seconda parte del Rock Sound City con Unbelievable Fate, che abbiamo scoperto all'Arcibarcollo, gli Antiria, che propongono un interessante gothic metal, tra l'altro sono gli stessi che abbiamo provato a farvi sentire live la scorsa settimana. Sì, che non si sentiva una mazza praticamente. Perfetto. Democratic Sofa, che si sono presentati vestiti in pigiama e con gli accappatoi sul palco del Rizla. Originale. Sì, gli Urlautori, che sono una band in gamba, simpatica, con dei bei testi. E poi insomma c'è la seconda parte della selezione dell'Italia Wave, che propone Atelier Panic Syndrome da Siracusa, Retrosonic, Gentlest, Fraule Nalisce, Inadie da Catania, i Martiri di Falloppio, che è una band che ho scoperto sempre a Rizla, sempre di Catania, eccezionali, spero presto di portarveli in qualche modo. Ben volentieri. My Maker, che sono tra le band che sono già nella lineup del Minchia Rura Festival. Sì. Consiglio di vedere anche il promo del Minchia Rura Festival, perché secondo me è geniale. lo andremo a cercare su Google. Alla Cipri e Maresco. Guarda, io ho altre due cosucce in appuntamento, giusto per... Volentieri. Giusto per tenerci impegnati. In forma. Allora, mi pare che domani Domani, sì, allora domani al Centro Sociale Ex Carcere, che era lo stesso ha proposto la rassegna di teatro, sì, musica e sport, sì, sì, c'è una sorta di spettacolo con di danza, con spasmo e trance, insomma un qualcosa di acrobatico e misterioso. Trance in che senso, scusa? Trance credo si riferisca alla musica. Ah, ok. spero non ad altro. Domenica invece c'è una sorta di friendly fight, insomma una festa delle mazzate di primavera. Hai capito. Può servire domenica. Botte da orbi praticamente. Sì, diciamo che no, si spera di no. Ovviamente chi lo organizza dice chi vuole mazziarsi in simpatia e in allegria ci venga a trovare alle 5. Insomma. Per la serie pigiama party con i cuscini, diciamo, esatto. No? Abbastanza soft. No, ci vanno giù di kickboxing. Ah, hai capito. Altro che cuscini. Hai visto Max? Ho capito, senti, insomma, se hai tanta carne al fuoco passerai sicuramente un bel weekend questo a Palermo, insomma, fra tutte queste cose la cosa bella è che c'è sempre tanta bella musica dal vivo, la cosa mi rincuora parecchio e so che anche a te, insomma, che sei amante, insomma, del live e della musica emergente. Sì, domani vedremo di intervistare la band vincitrice del Garage Clash Contest per Racconto di Rock Evolution. Mi toccherà presentare e anche dirigere, insomma, la serata. Sarà tosta. Ah, ma ormai perché... è diventata allora una cosa costante questa qui, come una professione praticamente. No, spero di no, anche perché la professione vera mi tiene a tamburo battente. Anzi, buttate un occhio su palermoreport.it perché, insomma, teniamo aggiornati su tutto. Assolutamente, palermoreport.it con tutti gli articoli sempre molto interessanti di Francesco Quartararo, ma non solo. Francesco, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona serata, un buon weekend, appuntamento la prossima settimana. Un bacione a tutti, buon rock. Ciao caro, buon rock anche a te. Che belle, sempre le notizie, le curiosità di Francesco, insomma lui sì che se ne intende di musica e farci sapere dove andare a trascorrere le nostre belle serate. Eh sì, arrivano in REM, Hit Happened Today, questa è una nuova canzone molto bella. This is not a parable, this is a terrible. This is a terrible thing. Yes, I will rhyme that after all I've done today, I have earned my wings. It happened today. Hooray, hooray. It happened. Hip, hip, hooray. We'll be the allegory to another Bible story. Out of deference, defiance, choice. Closing on a promise after all I've done today, I have earned my voice. It happened today. Hooray, hooray, it happened. Hip, hip, hooray. We'll be right back. davvero una bella collaborazione quella fra Joel Gibb and Eddie Vedder con la realizzazione per l'appunto di questa canzone, l'ultimo grande successo degli Here I Am, It's Happened Today. Adesso voliamo virtualmente nel 1995 e andiamo in Kansas City negli Stati Uniti e andiamo a conoscere e ad ascoltare i Get Up Kids, che inizialmente si chiamavano The Cure Suburban Get Up Kids. Pensate che è lungo. Poi il leader del gruppo, Matt Pryor, riteneva scadente che un nome ricominciasse per S e quindi decise di sostituire la parola Suburban con l'articolo appunto The, quindi The Get Up Kids. Il tutto all'interno di Rock Revolution. Fra un po' saluto anche un po' di amici su internet che so che stanno mandando tanti messaggi, intanto mi dimentico, però stavolta mi sono ricordato, quindi avrete spazio sicuramente anche voi. Close to Me. Su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. Quanto verde tutto intorno e ancor più in là. Fantastica interpretazione di Marlene Kunz con Impressioni di settembre, brano tipico della PFM, premiata Forneria Marconi, brano che insomma gli anni 70 sconvolse parecchio, eh? Allora, siamo pronti a metterci in collegamento con esattamente la città, non la so, adesso la chiederemo direttamente agli interessati, comunque con i Verbal, per conoscere questo progetto musicale molto interessante. Allora, dovremmo essere in collegamento con Marco. Marco, buonasera. Sì, ciao, buonasera. Buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Grazie. Ciao a allora, tutti. Anzitutto volevo chiederti di dare subito per gli amici su internet le coordinate per visitare, insomma, su internet, se avete un profilo Facebook, un sito internet, un MySpace. Allora, per il sito internet è www.verbalband.com. Sì. Com. E invece per Facebook, facebook.com/verbaltrust, scritto trust. Perfetto. Senti, per il MySpace. Ok, allora cominciamo con una domanda classica. Chi sono i Verbal? Oh. Ok, allora i Verbal sono cinque musicisti che si sono trovati magicamente un anno e mezzo fa a suonare in una saletta ricavata da un cascinale. Sì. E ci siamo divertiti molto, sono nati dei pezzi in cui abbiamo cominciato a credere sempre di più e alla fine abbiamo registrato un disco e adesso si vedrà. Senti, quali sono sostanzialmente le differenze, chiaramente se ce ne sono, a livello musicale tra i Verbal e la band attuale, musicalmente parlando, rispetto a quella degli esordi, no? Diciamo. cioè l'evoluzione che abbiamo avuto? Sì. Ma all'inizio eravamo molto più incentrati sull'improvvisazione, la jam session, i primi pezzi sono nati proprio in questo modo, scremando sempre di più le idee, ci siamo accorti di che cosa ci piaceva di più, che cosa ci sembrava che funzionasse di più, e pian pianino abbiamo cominciato a, diciamo così, delineare un'estetica, se si può dire così. Sì. E poi da parte mia c'è anche tutto il discorso relativo ai campioni, il campionamento, che è una cosa che riesce a creare anche un po' degli orizzonti sonori un po' più evocativi, quasi, quasi da cinema. C'è dentro tante cose. Il percorso è stato più che altro forse però a togliere più che a mettere. All'inizio c'era forse troppa roba e adesso siamo arrivati all'equilibrio giusto, ecco, diciamo così. Beh, è importante comunque quando ci sono tante idee, no? Perché poi scremando si selezionano le migliori. Il problema è quando non ce n'è di idee che bisogna trovarsi a far musica. Senti Marco, quali sono i temi più ricorrenti nei vostri testi, se ce ne sono? Beh, allora, diciamo che il linguaggio noi lo usiamo in maniera un po' atipica, nel senso che le parole sono nella maggior parte campionate, quindi vengono da, ad esempio, non lo so, da sketch di Benny Hill piuttosto che dall'allunaggio degli anni 60. E come mai questa idea? Le parole veramente cantate sono o dei gremlot, quindi di pura invenzione, semplicemente suono, oppure delle sorte di mantra. C'è un pezzo che dall'inizio del cantato alla fine del cantato ripeto soltanto Scheiße, meine Kleine. Sì. La parola è funzionale a come suona, non veicola quasi mai un vero e proprio testo. Ho capito, ma la scelta è perché non avevate delle cose da dire, quindi vi siete concentrati, spero di no, sul casuale, oppure una scelta? Il fatto è che tra l'altro bazzichiamo un po' tutti la musica strumentale un po' da sempre, e ci siamo ritrovati a fare una musica che è veramente forse quasi più una colonna sonora. Parlare di qualcosa con un testo ci sembrava ridurre in un contesto specifico qualcosa che ci piaceva che ognuno vivesse un po' a suo modo. Certo. E quindi le parole è come forse superfluo. È come decidere una successione di note sulla chitarra, è la stessa cosa. Non per sminuire il testo, ma per usarlo forse in un altro modo. In un altro modo, senza dubbio, senza dubbio. Senti, una domanda che facciamo un po' tutte le band. Noi ogni settimana sentiamo insomma le voci di band da tante città d'Italia e non solo. Volevo chiederti, insomma, dal tuo punto di vista, com'è la scena musicale underground italiana? Credo che la scena sia molto viva, molto attiva e che sia, senza entrare troppo nello specifico, ma in generale sia assolutamente molto più interessante di qualche anno fa, molto più viva e che forse è semplicemente un pochino più nascosta perché ha deciso di rinunciare a scontrarsi contro i mulini a vento di quello che può essere l'immagine da MTV o da mainstream, e ci sono un sacco di band che suonano spesso davanti a tanta gente senza avere dei canali che li portano magari ad avere un nome famoso ai più, ma che riescono a fare bella musica e a portarla in giro in modo veramente valido. Secondo me è comunque un buon momento, anche se magari forse passa un po' per toni un pochino più bassi, ma invece l'underground è molto molto attiva e ha un pubblico, soprattutto ha un pubblico. Certo, questa è la cosa più importante, perché è proprio il pubblico che poi dà la spinta e la motivazione per continuare a far musica, per investire insomma in queste cose qui. Marco, noi siamo ansiosi di andare ad ascoltare la vostra canzone. Questa sera ascolteremo Double di Mervyn. Se ci vuoi insomma anticipare qualcosa del brano. Double D è un pezzo un po' particolare, perché è forse quello dove il noise, il rumore, le contaminazioni si sovrappongono di più all'interno del disco. Ci sono campionamenti di Ornette Coleman, delle Andrew Sisters, ci sono ferraglie che cadono, ci sono tempi dispari che si sommano, è volutamente, in certi tratti è volutamente caotico, e forse è quello un po' più irruente e forse un po' più sbarazzino allo stesso tempo, non lo so, ci siamo divertiti a giocare un po' con tanti elementi, siamo, a metterli insieme. Siamo ansiosi di andare ad ascoltare. Marco, noi ti ringraziamo di questo intervento, vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo chiaramente per il vostro progetto musicale, per il vostro futuro. Grazie a voi, crepi il lupo, a presto. A presto. Loro erano i Verbal, Marco per insomma portavoce dei Verbal, questa band che andremo ad ascoltare immediatamente. Verbal con Double D Mervin su Rock Revolution, la musica emergente. Insomma, la cosa che Marco ci ha detto è il fatto che dal suo punto di vista la musica underground è viva, non può farci che piacere. Bello sentire anche varie campane, insomma, perché alcune hanno detto che ci sono grossi problemi, altre dicono che invece va molto bene. Probabilmente dipende anche dalle zone in cui questi ragazzi insomma suonano, però l'importante è che almeno da qualche parte ci sia musica underground e abbia anche un seguito. Questa è Rock Revolution su CRMP Radio, il programma rock del venerdì sera dalle 21 a mezzanotte, poi in replica domenica, scusate, anche il sabato dalle 19 alle 21 e anche in podcast dal nostro sito internet rockrevolution.it, dove potete andare sempre a scaricare le varie puntate. Arrivano i Killers con A Dustland Fairy Tale, dopo ne parliamo. A Dustland Fairy Tale beginning, but just another white trash county kiss in 61. Long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade and Moon River, what'd you do to me? I don't believe you. So Cinderella in a party dress, and she was looking for a nightgown. I saw the devil hands, he's getting ready for the showdown. I saw the minute that I turned away, I got my money on a pawn tonight. A change came in disguise of revelation, set his soul on fire. She says she always knew he'd come around, and the day disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear. We don't know. Your mind is poison, castles in the sky sit stranded, vandalized. We're drawbridges closing. Saw Cinderella in a party dress, but she was looking for. I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the showdown. I saw the ending when they turned the page. I took my money and I ran away, straight to the valley of the great divide. Out where the dreams are high, out where the wind don't blow, out here the good girls die, and the sky. Non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Thank you. Shake Me Down, i Cage the Elephant. Ci trasferiamo negli Stati Uniti, esattamente nel Kentucky, bellissimo stato degli Stati Uniti, esattamente a Bowling Green. Chissà se ha dato il nome questa cittadina poi al gioco del bowling, dove tra l'altro erano noti come Perfect Confusion, confusione perfetta. Nel sito ufficiale la band spiega che le loro influenze sono molteplici e cominciarono a assimilare tutto ciò che potevano trovare tra le band come i Beatles, i Ramones, i Led Zeppelin, Chuck Berry, i Rolling Stone, i Nirvana, i Pixies e così via. Anche se si possono sentire anche sonorità simili a quelle degli Arctic Monkeys, è uno stile di cantare che ricorda quello dei Kasabian, che abbiamo tra l'altro ascoltato poc'anzi. Prossima sequenza invece, anzi forse prima sequenza di questa sera invece, vedere protagonisti due band importantissime della storia della musica. Parliamo dei Beatles, in sequenza con il Little Scared, che è sempre un titolo, un nome di una band difficilissimo da pronunciare, quasi uno scioglilingua. Vabbè, non penso ci sia bisogno di presentazioni per queste canzoni, no? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, yeah, let it be. Bellissima sequenza con i Beatles e Rolling Stones con questa canzone, insomma, secondo me è davvero intramontabile. Prossima canzone, come sapete ci piace andare un po' in giro per il tempo, come se avessimo anche una macchina del tempo che ci sposta un po' dalle canzoni più recenti a quelle invece un po' più datate, ma sempre belle. Parliamo chiaramente di grandi successi della storia della musica. Tra l'altro nel frattempo, ecco, mentre ascoltavamo questa canzone, sono arrivati in studio i ragazzi, la band che tra poco conosceremo nuovamente con il loro progetto appena uscito. Parliamo dei Deep Black Seas da Castelbuono, quindi li avremo in studio con noi. Potrete seguire il tutto anche chiaramente in webcam per spiare un po' all'interno dello studio questi ragazzi, che tra l'altro da qui a poco saranno anche in tournée in varie città d'Italia, ma ne parleremo tra pochissimo, subito dopo questa canzone abbastanza emblematica di Cure, si intitola Just Like Heaven. Stavo dimenticando anche questa volta di salutare gli amici su internet. Allora, devo salutare Patrizia, Noemi, che non credo sia quella che pensate voi, poi Claudia, poi Princeps, boh, Principessa sarà Ilenia, anche lei, buonasera, grazie per ascoltarci. Con l'occasione vi ricordo i vari modi per mettervi in contatto con Rock Revolution. Allora, via SMS al 335 56 37 251, oppure, so che preferite, direttamente dal nostro sito internet crmpiradio.it, dove potete comunicare tra l'altro con i Deep Black Seas da Castelbuono, che tra pochissimo saranno dei nostri. Adesso arriva il Rock for You. Ogni venerdì alle 21, in diretta su CRM Happy Radio, Rock Revolution. Ben trovati a questo nuovo appuntamento su CRMP Radio con Rock Revolution, il programma rock del venerdì sera dalle 21 alle 23, rigorosamente in diretta su CRMP Radio. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Direttamente da Palermo questa sera per Rock Revolution. Buonasera! Ciao agli ascoltatori di Rock Revolution. Intanto ringraziamo chi ci ha ascoltato, ovviamente lo staff di questa radio e la trasmissione Rock Revolution. Che noi, grazie a voi. Io seguo, mi sembra spesso. Rock and roll with Rock Revolution. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Just an alley creeper, light on his feet. For You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni.

inside me. This won't hurt, I swear. She loves me not, she loves me still. But she'll never love again. She lay beside me. But she'll be there when I'm gone, like a scarring darker steel. Yes, she'll be there when I'm gone. Yes, she'll be there when I'm gone. Then sure she'll be there. What I feel, what I've known. Turn the pages, turn the stone. Behind the door, should I open it? Questo era il Rock for You di questa settimana, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni, insomma avete sentito che gran musica. E adesso è arrivato il momento catartico della puntata, ovvero il momento che noi dedichiamo all'intervista con la band in studio. Sono tornati questa volta a trovarci da Castelbuono. Facciamo una presentazione ufficiale però, altrimenti poi Simone mi sgrida, facciamo la presentazione ufficiale. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Ecco, adesso posso parlare. Allora, direttamente da Castelbuono, questa sera abbiamo il piacere di avere con noi The Black Seas. Buonasera ragazzi. Buonasera. Avete visto, ciao, che presentazione che vi abbiamo messo da parte? Allora, The Black Seas, come anticipato, vi ricordo la formazione: Marcello Napoli, Giuseppe Mazzola, Mirko Mazzola, Walter Mogavoro e Antonio Pupillo. Vi ricordo velocemente anche il loro MySpace, che è www.myspace.com/TheBlackSeas. Allora, abbiamo già avuto il piacere di intervistarvi in diverse occasioni e ogni volta chiaramente sempre un grandissimo piacere, ci portate sempre tantissime novità. Cominciamo quindi con la presentazione per chi ancora non vi conoscesse. Chi sono i Black Seas, The Black Seas? Chi vuole parlare? Black Seas sono un gruppo di 5 sfaticati. Lagnusi, sì. Che fanno musica progressive, dal rock al metal, è un po' vario come genere, e che ultimamente hanno inciso un album che adesso è andato in distribuzione. Insomma, cercano un po' di fare conoscere la propria musica. Ecco, giro. Voi siete a dispetto di quanto hai detto tu, che siete la news, invece siete tantissimi impegnati, siete stati anche in America, avete fatto tantissimi concerti in varie città d'Italia. Volevo chiedervi, insomma, un po' di biografia, no? Così come viene così detta la biografia, cioè quando nasce la band e come si è poi sviluppata in questi anni la formazione, se è sempre stata quella iniziale oppure vi siete evoluti. Allora, parlo io, sì. La band nasce nel 2003, avevamo 12-13 anni, quindi eravamo molto piccoli. Inizialmente abbiamo cominciato a lavorare su delle cover, poi piano piano è nato il progetto proprio di Original. Abbiamo poi cominciato a scrivere i nostri pezzi, fino a quando un produttore americano, Silvia Messi, un paio di anni fa ci ha proposto di incidere questo album in America. E quindi da lì è nato tutto, perché inizialmente ci chiamavamo The Crash, quindi avevamo un altro nome addirittura, poi lì è cambiato un po' tutto. Diciamo, abbiamo inciso questo album, abbiamo fatto un contratto discografico e adesso stiamo in giro un po' in quando Italia. Vi dicevo che Rock Revolution portava bene, non so se vi ricordate, comunque sta andando davvero bene. Poi tra l'altro abbiamo fatto anche un collegamento telefonico con l'America quando eravate in studio di registrazione. Esatto. È stato molto bello e molto piacevole sentire proprio dal vivo quelle che sono state le vostre emozioni durante la fase della registrazione. Penso sia stato un momento indimenticabile, no, per voi. Sì. Ci volete parlare un po' di queste esperienze in America? Dove siete stati? Cosa avete visto di bello? Insomma, portateci un po' in America con voi. Beh, siamo stati a Weed, nel nord della California. Yeah. Weed, come erba, cioè. Hai capito? Già da là si capisce un po' tutto. Niente, siamo arrivati erba lì. Erba di casa mia, come erba si diceva Massimo Ranieri. Siamo arrivati lì. Era un paesino di 2000 abitanti, praticamente non c'era un cazzo, scusa la parola, no, forse vabbè, si può dire. Ormai è anche nel vocabolario, quindi si può utilizzare. Bene, niente, dalla mattina fino a mezzanotte stavamo lì a registrare, non ci abbiamo capito un cavolo. È stato faticoso, immagino. No, è stato fantastico, era quello che desideravo più di ogni altra cosa. Da ripetere assolutamente, immagino, lo spero. Poi penso questo sia, insomma, il sogno di ogni musicista sia proprio quello di potersi dedicare interamente a fare questo, alla musica, stare in studio, a comporre, a registrare, a girare per il mondo. Ultimamente uscita la canzone dell'Hit FIBA, La mia valigia, no? La vostra valigia quanto è grossa? Ma pure senza valigia possiamo partire. Me lo immaginavo, col bastone e il sacco, come siete castati animati, insomma, pur di far musica, ben venga. Sentite, come definite la vostra musica, il vostro sound, e com'è stato per voi l'approccio a questo genere musicale? Com'è nata l'idea di mettere su una band e seguire questa linea, questo genere musicale, che vi pregherei di definire, se potete, se si può definire chiaramente? Ma non so, noi abbiamo iniziato... Piccolo, da piccoli, no? Facevamo cover di qualsiasi tipo, quindi non c'era un... non abbiamo seguito un percorso specifico, così, a caso. E poi abbiamo iniziato ad avere qualche idea nostra di qua e di là e siamo arrivati... a questo risultato, diciamo. Che è molto buono. Devo dire. Anche che è molto vario, quindi non ti saprei dire il genere esatto. No, ma è bello anche così, no? Perché poi la gente può liberarsi in immaginazione e scegliere un po' quello che è il sound, definire autonomamente il vostro sound, vostro genere. Allora, questa sera i Deep Black Seas sono a Rock Revolution per presentare il loro nuovo lavoro che si intitola... Inside Outside l'album. Che è un album che vedete tra l'altro anche in webcam, la copertina è davvero molto particolare, ne vogliamo parlare, è un'idea molto carina con queste candele, questa atmosfera un po' dark, come mai? Vabbè, una copertina molto fortuita perché è il luogo in cui abbiamo dormito a San Francisco da nostri amici che stanno lì tuttora. E niente, c'era questa foto che aveva fatto la padrona di casa e appena l'abbiamo vista ci siamo innamorati. Va bene, andiamo subito ad ascoltare la prima canzone di questa sera. Loro sono i Deep Black Seas, una band che è partita da Castelbuono, adesso sta girando praticamente tutta l'Italia e ci auguriamo presto anche l'estero, e questa sera ci presentano il loro nuovo album davvero molto bello. Questo è il primo brano di questa sera, si intitola Wind of Pain. We'll be right back. ask myself, can you hear me? Ask myself, can you help me? When the clouds are fade away. I Deep Black Seas, Rock Revolution da Castelbuono. Questa era Wind of Pain, contenuta all'interno del loro ultimo lavoro dal titolo Inside Outside, un album che è stato registrato in America. Adesso ce lo propongono, insomma abbiamo vissuto assieme a loro un po' questa preparazione, questo disco, e quindi ci fa un enorme piacere, insomma, poterlo ascoltare adesso. È noto, insomma, una sonorità molto molto cattiva, molto aggressiva, o sbaglio? C'è qualcosa del genere in questa canzone? Vabbè, certo, ci sono vari stati d'animo. Soprattutto di tutto e di più, insomma. Di cosa parlano le vostre canzoni? C'è un tema ricorrente oppure spaziate, insomma, dall'amore alla politica? Non so, di cosa parlano le canzoni dei Deep Black Seas? Beh, per quanto mi riguarda, perché le canzoni dei Deep Black Seas, diciamo, è aperto a tutto il gruppo, non c'è soltanto una persona che può scrivere o deve scrivere. Però in quest'album, diciamo, siamo stati io, Antonio. Quindi, per quanto mi riguarda, diciamo, sono delle esperienze, sensazioni, sogni che hanno riguardato la mia persona, riguardo la vita. O quindi c'è qualcosa di autobiografico nelle canzoni, assolutamente, no? Sì. E questa è una cosa bella, perché si parla tanto del fatto che la musica possa dare sfogo a chi la fa, no? A chi la suona e a chi la canta. Quindi sentire poi una canzone vuol dire anche sentire un po' e vivere assieme al cantante, al musicista, quello che è stato quel momento per quel musicista. E quindi questa penso sia già una cosa bellissima, che poi è di libero arbitrio, no? Perché ognuno può interpretare quella canzone magari vuole, adattandola, sì, alle proprie esperienze, alle proprie esperienze. Basta, non volevo dire un'altra parola, però mi viene. Allora, volevo ricordarvi allora i modi per mettervi in contatto con i Deep Black Seas, se avete piacere di fare un saluto, di fare una domanda. Allora, via SMS al 335 56 37 251, oppure sul nostro sito internet crmpradio.it, o aggiungo ancora il nostro sito rockrevolution.it, dove potete sempre trovare informazioni riguardo le varie interviste, i podcast, le fotografie, le repliche di Rock Revolution, settimanalmente, costantemente aggiornato. E quindi rockrevolution.it. Visto che parliamo di siti internet, colgo l'occasione anche per ricordare il sito della band di questa sera, quindi Deep Black Seas, che è www.deepblackseas.com. oltre a MySpace potete quindi visitare il loro sito, che è totalmente aggiornato, con la copertina del disco, le date del tour che abbiamo, insomma, scoperto sono davvero tante. Quindi avete viaggiato un bel po'. Come viaggiare per la musica? Bello. Appagante. Scomodo, ma bello. Ma perché viaggiate con il con Volkswagen, Fogone, quello, sì, degli, sì, anni, ma, di... Ma io non lo so, in realtà non me lo ricordo. Lui dormiva. Quello con i fiori, sai, tipo tipo bello, Woodstock. Beh, un'esperienza, insomma, che chi fa musica vorrebbe assolutamente vivere. Parliamo di brani, no? Se doveste scegliere un brano del disco da pubblicare come singolo, quale scegliereste e perché? Anzi, in questa occasione vi pregherei di parlare singolarmente. Quindi, con chi parliamo? Con Mirko. Mirko, allora, Mirko, c'è una canzone che ti piace più di tutte? Magari dove sei rimasto più contento di quello che hai fatto? Sì, l'ultima, che è Soul Freedom. Che ascolteremo, tra l'altro. Sì, l'ultima perché, diciamo che è la chiusura del nostro percorso, da quando abbiamo iniziato fino a quando abbiamo, appunto, registrato l'album, e posso dire che sono molto soddisfatto per la riuscita del pezzo. E quindi meglio di così, pensi, non si possa fare in questo momento, magari, no? Cioè, hai dato il meglio di te? No, il meglio di me no, però Ce l'hai messa? Sì, ce l'ho messa un po', sì. Gli altri ragazzi se la ridono, non so se in webcam lo vedete. Adesso voglio sapere perché se la ridono. Walter, spiegaci tutto. Ma perché è un pazzo? come un pazzo? Perché che ha combinato? Ma niente, assolutamente, lui vive così, alla giornata. È una rockstar un è po', una rockstar, no? È una rockstar. Sì, sì. Walter, invece per te cosa che ma qual è io, la canzone? Io sono d'accordo con lui, cioè, anche perché sono contento sia del testo di questo brano e della musica, che è il risultato di tutte le forze delle nostre esperienze, mm-hmm, praticamente. Secondo me è il culmine di quel periodo. Antonio, scusa, volevo chiedere una cosa, ma voi vi sentite liberi? La vostra anima è libera? Noi ci proviamo, sì, con la nostra musica riusciamo ad essere liberi. Io tra l'altro parlavo, poi Antonio è venuto un po' prima in studio a farci compagnia, parlavamo del fatto che adesso hanno una persona che si occupa chiaramente del management, sì, che Cristo, sta organizzando, che salutiamo che sta organizzando appunto il tour per i Deep Black Seas, hanno anche un'etichetta discografica, insomma arriverà magari un giorno in cui vi verrà fatta una proposta da un'etichetta discografica un po' più importante. Sarete disposti a scendere a compromessi? No. Musicali no, sicuramente. Ma nemmeno nemmeno di altro tipo, no? Va bene. Invece Mirko, Marcello, invece per te, poi anzi, ci siamo dimenticati Antonio, qual è la canzone che per Antonio? Sì, io concordo con gli altri due, perché Soul Freedom a mio parere è il risultato di una miscela che risulta essere equilibrata tra sonorità più dure e quelle più calme, quindi mm-hmm, è un giusto mix, secondo me. Siamo riusciti proprio a equilibrare bene le due componenti del nostro stile. Anche se non la metteranno mai in commercio, perché dura non troppo. La metteranno mai in commercio, però la metteremo in radio, secondo me ci sono buone possibilità. Marcello, invece tu? Io concordo. Anche tu, tutti d'accordo su Soul Freedom. Sì. Quindi è una canzone che mi pare di capire, insomma, che vi rappresenta parecchio. E siete contenti di questa cosa qui. Immagino, insomma, dal vivo si creerà poi questa atmosfera particolare, visto che ci è molto abbastanza sentita. Vi gasa. Invece adesso vi gratifica, chiaramente. Invece adesso ascoltiamo un'altra canzone. Ci volete dare una presentazione di questa qui? Parliamo di Before Dying, prima di morire, praticamente. No? Cosa succede prima di morire? Lo sa bene Antonio. Prima di morire che succede? Che si ha paura. Uh-huh. Diciamo che il testo tratta proprio di queste sensazioni un po' tetre. Però all'interno della canzone c'è una rivalsa, diciamo. C'è una terza persona che parla. Allora non resta esatto, altro che andarla ad ascoltare. Meglio. Quindi tratta dal loro nuovo album Inside Outside, i Deep Black Seas. Da Castelbuono con furore aggiungerei. 335 56 37 251, questo è il numero per gli sms per comunicare con loro, oppure su rockrevolution.it o su crmpiredi.it per mandare un messaggio e interagire con la band, che torna dopo aver fatto un bel tour in giro per l'Italia, per il mondo. Sono tornati qui, a noi fa piacere questa cosa, insomma. Andata bene, vi auguriamo sempre un grandissimo in bocca al lupo. Però continua l'intervista, non pensate che poi c'è Soul Freedom, ne abbiamo parlato tanto, quindi dobbiamo ascoltarla. Nel frattempo arrivano anche dei messaggi. Francesco, bravissimi di Black Seas, complimenti. Adesso Before Dying. Take a particular day before. I Deep Black Seas questa sera ospiti di Rock Revolution presentano il loro album nuovo Inside Outside e questa era Before Dying. Altri messaggi da internet, Franci dice musica doc di origine controllata, no, castelbuonese. E quindi sono qui con noi questa sera Marcello, Giuseppe, Mirko, Walter. Giuseppe non c'è. Ah, Giuseppe non c'è, Giuseppe non c'è. Scusate, lo salutiamo, anzi con l'occasione. Un altro messaggio, Serena: ma verrete a suonare a Torino? Sono curiosa di sentirvi dal vivo. È imprevista una data a Torino attualmente, ragazzi? Attualmente no, ma nelle ci stiamo lavorando. Bene, bene, insomma, Torino è una città meravigliosa. Colgo l'occasione a salutare Serena. Allora, un'altra bella domanda. Dunque, dopo aver registrato questo album, no? Ci sono delle cose che vorreste fare? Cioè, vi volete togliere uno sfizio? Quale potrebbe essere? Siete stati in America a registrare. Questa è una cosa che non capita tutti i giorni, soprattutto non a tutte le band. C'è un'altra cosa che vi piacerebbe fare? Suonare ovunque, in tutto il mondo, in qualsiasi palco. C'è un esempio, una band che vi piacerebbe da aprire, dal concerto di questa band, che ne so? Penso, sì, ai Porcupine Tree. Antonio? Idem. Marcello, Mirko, sì. Mirko. Sì, i Porcupine Tree, perché a me personalmente hanno ispirato molto. Bene. Me la collo anch'io. Io dovete scusare la mia ignoranza, però io non li conosco. Quindi, anzi, vi ringrazio stasera per avermi detto, portato a conoscenza di questa band. Andrò a informarvi, sì, rispetto alla curiosità, ascolterò la loro musica. Sentite, ci sono delle differenze che notate ascoltando un brano dal vostro ultimo album ed un brano prodotto ai vostri esordi? Ma è una domanda retorica. È una domanda retorica. Non c'è assolutamente paragone. Sono proprio due cose totalmente diverse. In positivo, immagino. Sì, sì. E qual è la cosa che, insomma, avete realizzato dall'esperienza della prima registrazione? Cioè, c'è qualcosa che avete detto: no, così non può andare, questa volta lo facciamo in questo modo. C'è un elemento in particolare che avete scelto di vivere in modo diverso, anche come forse proprio dal punto di vista del vivere la cosa in un modo diverso, no? Non so se mi sono spiegato. Sì, ti sei spiegato, però no, non è cambiato niente, diciamo. La vostra musica si è chiaramente evoluta, probabilmente anche alle probabilmente tante esperienze. Anche grazie a queste esperienze. A queste esperienze, a Silvia ci ha dato... Chi è Silvia? Sì, scusa. Silvia è stata la produttrice dell'album. Uh-huh. Ci ha dato parecchi consigli su come muoverci, su come... Arrangiare i pezzi, sì, in un certo senso anche in questo, sì. Bene, quindi cioè, sicuramente un'esperienza che oltre ad essere bella è anche stata costruttiva, perché vi ha dato delle possibilità di conoscere delle cose che altrimenti magari non avreste avuto la possibilità di conoscere. Avete avuto un buon riscontro all'estero? So che siete stati un po' in altre città fuori dall'Italia. No. No? Ancora no. Ah, allora io ho avuto... scusate, no, era nel senso, ho letto male la domanda, pardon, torniamo indietro. In Italia si incontrano tante difficoltà nell'emergere rispetto ad altre band di altri paesi. Avete avuto la possibilità, anche avendo registrato negli Stati Uniti, di, come dire, avere un riscontro dalle persone, rispetto alle persone che hanno ascoltato la vostra musica? Cioè, ci sono stati dei pareri che vi hanno aiutato magari a modificare delle cose? Più che altro dall'estero abbiamo ottenuto pareri positivi, nel senso che... anche e soprattutto all'inizio eravamo più apprezzati fuori che in Italia. Mm-hmm. Paradossalmente è così, nel senso che ci conosce più gente magari fuori, Inghilterra, vabbè, Germania. Anche perché cantiamo in inglese. Quindi. Certo, quindi una lingua internazionale può arrivare facilmente, sì, anche in altre nazioni. Come vi state muovendo da questo punto di vista? Cioè, avete già in mente di vendere il disco su qualche portale, di distribuirlo in qualche modo? Ci avete pensato? No, il disco già è in distribuzione in Italia con Audioglobe, mm-hmm, è fuori con Cargo, Plastic, insomma. Amazing. Si trova ovunque, anche sui portali internet, quindi iTunes, Amazon, eccetera. Mm-hmm. Però il modo più economico è comprarlo da noi. Ecco. No, comunque si trova ovunque, in qualsiasi negozio, Feltrinelli. Bene, ovunque. Bene, siamo contenti. È un bel traguardo, penso, sì, per voi, no? È un traguardo importante. Parliamo, visto che Walter parlava del fatto che è possibile anche acquistarlo durante i live, parliamo proprio di live. Allora, dove sarete prossimamente? I vostri prossimi impegni? Allora, saremo il 4 maggio a Taranto. il 5 maggio saremo a Massa Carrara, apriremo un concerto agli Exilia. Poi il 6 maggio, aiutatemi, Lodi. E poi l'11 maggio a Pontremoli, che è vicino a Massa Carrara. Insomma, le altre date sono ancora work in progress. Senti, voi siete comunque abbastanza giovani, no? Siamo sui 25? 21, 22 anni, no? Come hanno preso le vostre famiglie questa cosa qui, il fatto che vi viaggiate spesso per la musica? Cioè la vostra scelta, no? Di dedicarvi interamente alla musica. No comment. No, bella domanda, lasciamo perdere. Walter, mia madre è felice che sono fuori casa. Mio padre pure. Poi c'è un messaggio carino da parte di Federica Fede, che chiede, pregherei anche la nostra redazione di mettere la webcam centrale, se potete avvicinare alla telecamera la cover del disco, questa videocamera centrale, così da permettere ai nostri ascoltatori di guardare, i nostri anche video ascoltatori, ecco, di guardare bene la copertina. Questa è la copertina del nuovo album Inside Outside. Molto bella, eccola, così è inquadrata. Lo ricordo perché su internet potete, oltre che ascoltarci, anche guardarci in diretta. Quindi Federica accontentata. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa intervista. Ci saluteremo sul sottofondo di Soul Freedom. Vi auguriamo un grandissimo, infinito in bocca al lupo. È andata bene finora, vi abbiamo portato fortuna. Speriamo che possa andare sempre meglio per la vostra musica. Siete molto forti, avete una grandissima energia, quindi ce la potete mettere tutta, va bene? Grazie mille, grazie, è stato mille. Un piacere. Grazie e vi aspettiamo per il prossimo album, chiaramente. Certo. Sull'etichetta, chi lo sa, Emi, Sony, insomma, BMG, sì, no? Ragazzi, un abbraccio. A presto, ciao. A presto, ciao, a presto. I Deep Black Seas a Rock Revolution questa sera hanno presentato il loro nuovo lavoro. Visitate il loro sito internet www.deepblackseas.com o il loro MySpace, myspace.com/deepblackseas, dove potete ascoltare la loro musica. Anzi, se avete possibilità e din, supportateli anche economicamente comprando la loro musica. Quindi chiudiamo l'intervista di questa sera con il brano di cui abbiamo parlato tanto. Il brano forse più rappresentativo dell'album Inside Outside di Black Seas. Si intitola Soul Freedom. I Deep Black Seas hanno presentato il loro nuovo album Inside Outside. La Castelbuono musica doc è stata definita. C'era anche un messaggio molto carino da parte di Giuseppe, dice: davvero ottima musica, ma posso scaricare il vostro CD dai Mule? Come? Facciamo altro che parlare di sostenere la musica emergente. A parte il fatto che comunque è illegale scaricare la musica dai Mule, bisogna sostenere la musica emergente e la musica anche in qualsiasi forma, ecco, ci tengo. So che costa tanto, però mettete i soldi da parte, ogni tanto vi comprate un CD. Non fa male, ve lo garantisco, non fa male. Tanti auguri di Black Seas da Castelbuono. Salutiamo anche Paolo, che ci sta seguendo durante il suo lavoro. Adesso arriva un momento importante, perché come sapete ogni settimana vi facciamo ascoltare delle versioni molto particolari, in versione dal vivo, live. E quindi lo spazio dedicato a Rock Revo Live e due brani in sequenza eseguiti dal vivo questa sera, due grandissimi interpreti, Nirvana e i Doors. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as unknown and to me. Take your time, hurry up, just as yours, don't be late. Take your rest, as a friend, as unknown and to me, yeah. Memory, yeah. Memory, yeah. Memory, yeah. Come, dust and mud, soak the bleach, as I want you to be, as a trend, as a friend, as unknown and to be, yeah. Memory, yeah. Memory, yeah. Memory, yeah. When I swear that I don't have a gun, Revolution Live. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Atmosfere tipiche dei Doors in questa sequenza mixata fra Nirvana con Unplugged in MTV, storico concerto dei Nirvana. Non so se avete mai visto, insomma, questo concerto, ve lo consiglio, anzi. Una scenografia molto particolare, con delle candele, con dei fiori. E Kurt Cobain, insomma, che in quei momenti non era proprio al massimo della forma, anzi forse già stava covando qualcosa. Era abbastanza spento. E poi Doors invece con questa canzone storica, questo ritornello molto familiare. Adesso invece arrivano altri due brani in sequenza, questa volta non dal vivo ma registrati in studio, una accoppiata molto particolare con i Nickelback e gli Oasis, ascoltate voi. I'm vediamo su internet che tanti amici ci stanno seguendo anche dai cellulari o magari di smartphone. Anzi, a tal proposito vi consiglio di scaricare l'applicazione di Rock Revolution sul market Android, in modo tale da poter seguirci anche, insomma, ovunque voi siate, sia in webcam che in audio. Anzi, con l'occasione, visto che abbiamo salutato anche tanti amici su internet, colgo l'occasione nuovamente per salutare Simone. Poverino, ammalato sta settimana, si è beccato l'influenza. E quindi un abbraccione a Simone. La musica continua adesso con gli Switchfoot. Torniamo nella California, a San Diego esattamente, un posto meraviglioso. E loro sono conosciuti per i testi spiritualmente evocativi e socialmente profondi. Parliamo degli Switchfoot. Secondo il cantante John Foreman, pensate un po', il termine Switchfoot è un termine usato nel surf per indicare l'affrontare una direzione opposta. Nella musica sarebbe un nuovo modo di affrontare il mondo e la musica stessa. A noi piace, insomma, sapere che la musica si può affrontare in modo diretto, anche in modo diverso. Nel dettaglio ascoltiamo degli Switchfoot, Dark Horses. I made my mistakes, I see my heart cave in, I got my scars, I've been to hell and back again. Born for the blue skies, we'll survive the rain. Born for the sunrise, we'll survive the pain. We're singing, hey, you can't come. Potete interagire con Rock Revolution al nostro sito internet crmpradio.it, come d'altra parte potete interagire anche con tutti quanti gli altri programmi di CRMP Radio. Volevo salutare tutti gli amici che ci seguono su internet, so che sono tanti anche da diverse zone d'Italia e all'estero. Questa cosa ci riempie di gioia, insomma, sapere che la musica va oltre confine. Arriva Franz Ferdinand, un tipetto un po' strano, devo dire, effettivamente. Questa canzone si intitola Can't Stop Feeling. Can't Stop Feeling, Franz Ferdinand su CRM Radio all'interno di Rock Revolution. Abbiamo ancora circa 30 minuti da trascorrere in nostra compagnia. Abbiamo anche, forse. Prossima canzone, accontentiamo anche un po' i Deep Black Seas. Walter, guarda, me lo potevo togliere di sopra, guarda, continuamente. Metti Foo Fighters. Mettiamo i Foo Fighters. Siamo nel 2011. L'album è Wasting Light, gruppo statunitense chiaramente, e questo è il primo estratto del settimo album registrato in studio, per l'appunto Wasting Light. Ha riscosso un grandissimo successo e noi questa sera ve lo facciamo ascoltare all'interno di Rock Revolution. Si intitola Rop. Anzi, se avete delle richieste, fate pure, no? Sono i Foo Fighters con Rope. Wasting Light, l'album del 2011 che è entrato nella Billboard Hot 100. Mentre adesso ci spostiamo di qualche annetto, di un anno in pratica, nel 2010, e andiamo a parlare del sesto album dei Cake Sick of You. Ottime posizioni anche per loro nelle classifiche musicali americane. La canzone descrive un po' l'odio che tutti provano per qualcuno che non ha mai incontrato come una star, un attore o il presidente, no? Sai che ci sono queste persone, questi fan, insomma, abbastanza accaniti, che farebbero di tutto per poter arrivare al loro idolo. L'album ad oggi è il più grande successo dei Cake, rappresenta lo stile unico e originale di questa band, miscela sapiente di liriche esoteriche, riff di chitarra cattivanti e distorti, linee di basso complesse. Insomma, un album assolutamente da ascoltare. Noi questa sera ne ascoltiamo soltanto una canzone, Sick of You. Sick of play, I don't need another day. Let the Be Rock, lascia che sia rock. Sono gli AC/DC. Adesso ci spostiamo nuovamente nella California. Stasera sarà la temperatura, insomma, un po' più calda di questi ultimi giorni. Forse il fatto che lentamente si sta avvicinando l'estate, viene voglia di ascoltare un po' di musica californiana. Non so perché. Forse è proprio un desiderio nascosto di poter tornare presto in spiaggia. Cioè, c'è una spiaggia meravigliosa, un mare fantastico, quindi è un po' forse la California del sud, la Sicilia, no? Parliamo di punk, in questo caso punk rock con gli Offspring. E questa è una canzone che rientra nel Greatest Hits degli Offspring, si intitola Million Miles Away. Offspring con Million Miles Away. Adesso passiamo a Rise Against con Endgame Architects. Loro sono una band melodic hardcore punk proveniente da Chicago, Illinois, USA. E tutti i componenti dei Rise Against, tranne il batterista, seguono lo stile di vita straight edge, ovvero stile di vita che prevede l'assenza di tabacco, alcol, droghe e l'astinenza dal sesso occasionale, e talvolta include anche vegetarianismo e veganismo. Strano per delle rockstar, no? Hey! questa sarà l'ultima canzone di questa sera per questa ennesima puntata di Rock Revolution. Non vi ricordo la nostra replica in podcast su rockrevolution.it, su crmpradio.it, oppure la replica, insomma, normale, diciamo così, tra virgolette, che potete seguire anche sabato pomeriggio dalle 19 alle 20, chiaramente su CRMP Radio. Quindi non ci resta altro adesso che passare automaticamente alla sigla finale, quindi salutare un po' tutti quanti, di Black Seas, i Verban, le band che insomma hanno fatto parte di questa puntata. Saluto Ida Parlavecchio, la nostra redazione, Simone Brancato, che stasera non è stato dei nostri, però virtualmente c'è stato. Un po' tutti gli amici che sono intervenuti nel programma. Voi ascoltatori, chiaramente, parte integrante ed essenziale di Rock Revolution. Appuntamento al prossimo venerdì, sempre dalle 21 a mezzanotte, su CRMP Radio, con tanta musica emergente, tanto rock and roll e tante belle notizie e curiosità, chiaramente. Da Filippo Brancato è tutto, grazie a tutti quanti. Appuntamento quindi la prossima settimana. Grazie ancora, bye bye. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Radio.